Mangia come parli. Mangia come parli. Di Davide Oldani e Pierluigi Pardo. E allora, caro chef, posso toccare ovviamente col gomito, perché un pluristellato, posso toccarlo? Certo, posso toccarla? Ho fatto una cosa ovviamente. Buongiorno a tutti. Col gomito, perché insomma le precauzioni non sono mai troppe, anche se io e Oldani siamo praticamente, come si dice, congiunti, nel senso che ci vediamo spessissimo, però insomma. Poi, è chiaro che... Tamponati. Sempre prima di entrare in radio, per cui siamo tranquilli. Assolutamente. Cioè, no, perché purtroppo, perché sei così esaltato? Dimmi perché. Perché hai preso la seconda stella, te la aspetti, mi racconti, adesso abbiamo già forse la prima ospite in linea, no, fra un paio di minuti, perché mi racconti come funziona la stella, la seconda stella, cioè voi sapete qualcosa prima, avere degli indizi, no, guarda, arriva l'uccellino prima che dice qualcosa? Posso essere sincero, anzi lo sono, assolutamente no, gli indizi sono che tu devi lavorare sempre bene e poi a parere della guida Michelin, di chi la conduce, se sei nella qualità che loro richiedono, nel servizio che loro, certo, vorrebbero del cibo, ti inseriscono nella loro guida, è molto semplice. Ma tu quando devi, è che avere, lo sai, quale qualità? La seconda stella quando l'hai saputo? Il giorno stesso? La seconda stella l'ho saputo quando ero sul palco, c'era anche Federica, okay, Pellegrini che presentava, okay, mi hanno chiamato. Quindi sei andato lì convinto di avere la solita stella? Che no, ormai, convinto, no. Loro avevano fatto un piccolo video sulla sostenibilità, per cui adesso parliamo anche di, certo, questo. E dovevo solo raccontare questo video sulla sostenibilità, e la sostenibilità è una stella verde che la Michelin ha aggiunto in tutto il mondo, per cui è veramente un bellissimo progetto, ed ero pronto a interagire con Federica per raccontare della sostenibilità dal mio punto di vista. Invece mi hanno fatto questa sorpresa che quasi, naturalmente non sono, grazie a Dio, debole di cuore, per cui è stata una sorpresa fantastica. Devo dire che dopo la nascita di mia figlia è stata la cosa più toccante. Allora ragazzi, 349-239-0191, scusate la minima celebrazione dello chef Oldani, no, ma grazie, del resto la seconda stella, se non la celebriamo, che facciamo? Più la verde, perché ci tengo a dire, la, certo, stella verde, che è molto sostenibilità è molto importante. E a proposito di sostenibilità, primo ospite del giorno in una puntata dedicata al melograno o alla melagrana? Alla melagrana, è il frutto, melograno è l'albero. Potete chiamarci. Il pero e la pera. Arancio e arancia. Vabbè, adesso dobbiamo andare avanti tutta la serata. Limone. Va bene, c'è Licia Colò con noi, conduttrice televisiva, divulgatrice scientifica, scrittrice, autrice di questo libro Pianeta, istruzioni per l'uso. Vedi che siamo perfettamente in tema. Ciao Licia, come stai? Licia, buongiorno, che piacere. Ciao ragazzi, grazie mille, è un piacere mio. Come va? Tutto benissimo. Senti, tu hai... Sono ferma in un'area di servizio per chiacchierare piacevolmente con voi. Questo è fantastico. Tu che hai girato il mondo, che sei stata alle falde del Kilimangiaro, che hai visitato l'Eden, esatto, in senso figurato, in senso fisico, insomma, anche le aree di servizio hanno il loro perché. Senti, com'è il mondo dal punto di vista... Tu hai visto tutto? Quanti paesi hai visto nella tua vita? Ma guarda, non te lo so dire perché non sono una di quelle persone che conta i paesi, però il mondo è talmente grande che penso sempre di averne visto una minima parte, anche se mi ritengo fortunata perché ho viaggiato tanto per lavoro e per piacere, ma non conosco magari il nostro paese, per cui in questo anno dove ci siamo mossi abbastanza all'interno dell'Italia ho continuato a stupirmi senza fare migliaia di chilometri. Licia, io ho una curiosità, visto il tuo girare il mondo, un ingrediente, un prodotto, magari anche un piatto che ti ricordi, come io sono stato nel Bahrain tre volte, e mi ricordo ancora adesso di questo limone che loro essiccavano, cuocevano, affumicavano e poi diventava nero, aveva un profumo incredibile. Hai un ricordo di questi tuoi viaggi? Guarda, in genere noi quando viaggiamo siamo sempre in situazioni un po' precarie, per cui non ho avuto la fortuna magari di testare piatti molto particolari. Sicuramente preferisco i piatti dell'Oriente, dove ci sono tante spezie. Mi sono abituata anche a mangiare piccante, perché molte volte mi hanno insegnato che il piccante sopperisce ad altri problemi, insomma, vero, altre vero. Funziona anche un po' da disinfettante, quindi questi mix. Però mi ricordo una volta, per dirti un aneddoto carino, che mi ero trovata nello Swaziland, questo staterello vicino al Sudafrica, ed eravamo arrivati dopo un viaggio di tantissime ore senza mangiare in un accampamento gestito da persone locali, e a un certo punto non c'era proprio nulla e c'era un pentolone, il classico pentolone dei fumetti dove non si sa che cosa c'è dentro, una brodaglia. E allora i miei colleghi hanno detto: andiamo a prendere una torcia per vedere che cosa c'è. Io ho detto: non vi permettete di illuminare niente. Non voglio sapere, non voglio sapere. Meglio Asterix e Obelix vicino. Ho fame, punto. Ragazzi, il Sudafrica, vabbè, adesso mi hai fatto viaggiare con l'immaginazione, l'Esoto, lo Swaziland, le Table Mountains di Cape Town. Vabbè, tanti ricordi bellissimi. Senti, tu nel libro parli molto di cibo, perché il cibo è strettamente correlato a tutti i temi della sostenibilità. Parli dell'oro che sgorga dalle palme, ti soffermi sul tema dello sfruttamento dei terreni, per esempio, appunto, della cultura delle palme d'olio in Oriente, in Indonesia, in Malesia. C'è maggiore attenzione oggi, secondo te, da parte degli italiani, ma insomma in generale dei cittadini del mondo, sul tema della sostenibilità ambientale e alimentare, sull'importanza del mangiare bene? Ma io voglio dire di sì, perché siamo tutti pessimisti, diciamo sempre che le cose vanno male e se vogliamo essere onesti ne abbiamo anche le buone ragioni. Qualche motivo ce l'abbiamo, sì. Esatto, ce l'abbiamo. Però nel libro Il pianeta e istruzioni per l'uso ho voluto accendere i riflettori sulla bellezza che ci circonda, perché in questo momento siamo tutti concentrati a vedere le cose brutte e invece la bellezza deve entrare dentro di noi. Dopodiché io sono convintissima che anche questo cambiamento della società, che non per tutti i versi ritengo migliorativo, però il fatto che si possa comunicare in maniera molto più semplice attraverso i social, il web arriva dappertutto, ha fatto sì che molte denunce hanno fatto migliaia di chilometri partendo anche dal cittadino comune. Quindi quando si parla l'oro sgorga dalle palme, parlo dell'olio di palma ovviamente, certo. No? È nata questa campagna contro l'olio di palma. Secondo me è un po' anche superficiale, poi, perché è diventata un po' una moda, no? Un po' una moda. È diventata una moda e quindi bisognerebbe anche capire che un certo tipo di olio di palma è assolutamente dannoso per il pianeta, un altro tipo di olio di palma prodotto secondo determinati criteri dà da vivere a milioni di persone, certo. Parliamo di milioni di persone. Ecco, ma perché lì c'è stato visto così in maniera diversa l'olio di palma? Ragazzi, vi posso fermare perché abbiamo il traffico, ci fermiamo un secondo, ripartiamo subito da qui. Mangia come parli, mangia come parli. Davide, avevi una domanda per Licciolo? Sì, parlo da consumatore, naturalmente, in questo caso non da cuoco, ma l'olio di palma è un olio vegetale. Per quale motivo negli ultimi 4-5 anni è stato così considerato in maniera negativa? Guarda, allora intanto io non sono un medico, però mi sono informata presso diversi medici e l'olio di palma sicuramente, come tantissimi altri alimenti, se mangiato in grande quantità fa male perché crea dei problemi di colesterolo, di grasso, eccetera, ma la margarina, contro la quale non è mai stata fatta nessuna campagna così pesante, esatto, è peggio dell'olio di palma. Premesso questo, l'olio di palma, dal mio punto di vista, al di là del discorso alimentare, ha fatto dei danni enormi per le foreste primarie, perché comunque hanno distrutto le foreste negli anni passati per coltivare la palma da olio, che ha una rendita molto molto elevata perché produce una grandissima quantità in pochissimo spazio. Esatto. Quindi ci hanno investito veramente tanti soldi. Però cos'è successo? Poi il mondo si è un po' rivoltato, l'immagine dell'orango, della foresta distrutta, e quindi c'è stata questa nuova sensibilità e si è iniziato a boicottare l'olio di palma e tutti i prodotti che lo contengono. Ecco, io non credo che sia giusto, perché io sono stata anche in Malesia a fare un servizio e ho visto quante persone ormai vivono grazie alla coltivazione delle palme da olio. Però bisogna che ci siano delle regole ferree, perché oggigiorno ci sono dei controlli, ci sono dei produttori che lo producono in maniera corretta soltanto all'interno di alcune coltivazioni. Non bisogna continuare a devastare la foresta. purtroppo, siccome la foresta continua ad essere devastata, ecco qui che uno dice: risolviamo il problema, non prendiamo più l'olio di palma. Tu hai fatto viaggi in tutto il mondo, però sei di Bussolengo, quindi insomma c'è un'anima. Il tuo piatto del cuore, della memoria, qual è? Bussolengo, diciamo, provincia di Verona, a ovest di Verona. Io sono nata a Verona, cioè a Bussolengo ovviamente, ma per caso, per cui comunque ho un legame forte con Verona perché i miei nonni sono sempre stati a Verona, quindi io ho amato tanto Verona e anche adesso che non ci sono più ne approfitto. Però calcola che il mio piatto del cuore con Verona c'entra poco. Io sono legata ai miei nonni, sono i passatelli. Ah, la mia nonna è romagnola, la Romagna, capito? Vedi. Mi faceva i passatelli, io li facevo con lei, che sono la cosa più buona vuoi del mondo. Vuoi darci la tua ricetta dei passatelli? Vogliamo mettere un gingolino, sentiamo i passatelli di Licia Colò, vai. Vabbè, portali questi. Gli ingredienti, le quantità non le faccio un pochino ad occhio, però sono semplicissimi perché si fanno con le uova, il pan grattato e il parmigiano, si fa una poi serve assolutamente, oddio non mi viene la noce moscata, un pizzico di sale. E poi si impastano. Che è la cosa è giusta, è la cosa più importante. E si fanno cadere nel brodo. Sì, poi si possono fare in brodo, col brodo di carne o col brodo di verdura, come uno preferisce. Ma poi è fondamentale avere il pasta passatelli. Ah, certo. Certo che sì. Tipo lo schiacciapatate. Capito? Tipo lo schiacciapatate. Che uno mette questa polpettona gialla nello schiacciapatate, che rispetto però allo schiacciapatate ha i buchini un pochino più grandi. E quindi escono questi vermicelloni che poi messi nel brodo caldo, subito dopo pochissimo tempo si vede, vengono a galla, e quando vengono a galla vuol dire che sono pronti. Come mi vedete, come cuoca un po' scarsa? Sei in sintonia con noi, perché noi raccontiamo le ricette così a Mangia Come Parli, non è che diciamo da professionisti. Per non metterti pressione, sei praticamente fra Oldani e Cannavacciuolo, fra poco arriva Cannavacciuolo da noi, quindi sei insomma, diciamo, io e te. No, ma tu sei brava, si vede che c'è una componente di cioè che la sai fare, ecco, che la sai cucinare. Ma assolutamente no, mia figlia dice che sa cucinare molto meglio di me perché ha dovuto imparare per sopravvivere. Vabbè. Cioè, ti rendi conto? Allora mandale il podcast. Ho un nemico le in mandi casa. Il link del podcast e le fai sentire la puntata con i complimenti. E i complimenti miei, naturalmente. Esatto. Però poi alla fine i figli parlano bene di quello che fa la madre, perché c'è un ingrediente in più che i figli non hanno, cioè il cuore che ci mette la mamma per cucinare. Vabbè, ragazzi, però chiudiamo tutto. Ragazzi, va bene che è Natale, va bene che è stato un anno difficile. Adesso questa melassa, dai, Oldani. Scusa, è vero, lo passo con mia madre ancora adesso. Ma lo so anch'io, potremmo parlare delle meravigliose melanzane alla parmigiana di mamma, ma ne abbiamo già fatto. Va bene, Licia, noi ricordiamo. Grazie, pianeta Licia. Istruzioni per l'uso, tu continua a viaggiare, anche perché poi nei tuoi viaggi potresti imbatterti nella melagrana, che è il frutto del melograno, che deriva dall'India, dal Caucaso o dall'Iran, e il nome ovviamente deriva dal latino mela con semi, anche delle altre lingue. Pomegranate in tedesco, Granatapfel. Granatapfel. Un'idea per stare in sintonia con Mangia Come Parli di quest'anno: il prezzo al chilo sui 3 euro. Ecco. 3 euro mi più o meno. Mi sei tornato razionalista. Giusto. Mi sei tornato cartesiano dopo la botta lì di melassa. Torniamo ai prezzi che sono importanti: 3 euro al chilo è il prezzo della melagrana. Grazie ancora, Licia Colò. E adesso, prima di andare, c'è già Cannavacciuolo? È già pronto? Sta per arrivare, vabbè, sono emozionato anche perché vedo, ma hai scritto bene qua. Ma è vera questa cosa? Sai che ogni tanto dedico le ricette a te. Allora, la prima ricetta del giorno è, sentiamo, una ricetta sostenibile per Pier. Vai. Ok, spaghetti, cacio, pepe e melagrana. A questo punto facciamo come vogliamo. Per 4 persone, dose di Pier sono più o meno 800 grammi. Non fate così, io direi 80 grammi a persona. In una pentola portiamo a bollore l'acqua, naturalmente. Cuociamo i nostri spaghetti, più o meno 300 grammi, vogliamo dire. Se nel caso avessimo 5 portati in un menù, facciamo anche 250 grammi, molto al dente o a corda di violino, come piacciono a me, come fanno a Napoli. Per la salsa, a parte, in una bacinella grattugiamo 200 g di pecorino di Pienza, aggiungiamo pochissima acqua di cottura della pasta, facciamo sciogliere a una temperatura corretta per cui non si bolle, per cui il formaggio non strappa, creando appunto una crema molto setata. Dopodiché condiamo i nostri spaghetti che abbiamo scolato e nel frattempo, se vogliamo, ascoltate bene come fanno a Napoli, o con un phon li asciughiamo leggermente, li facciamo raffreddare leggermente, oppure passando velocemente un tocco di acqua fredda e per intiepidirli, condiamo con la nostra salsa, li disponiamo nel centro del piatto e poi terminiamo con la melagrana sgranata. Allora, la bontà della melagrana, visto che tocchiamo l'argomento, deve essere quella che quando si assaggia il semino all'interno non dia fastidio, perché molte volte con prodotti che vengono importati e non italiani, per cui attenzione alla scelta di questo prodotto, hanno il seme molto fastidioso all'interno. Per questo piatto, per essere coerente con la cucina di Mangia Come Parli, la melagrana va assaggiata prima, anzitutto verificare che abbia una dolcezza corretta. Se no, prendiamo un po' di zucchero a velo, cospargiamo la nostra melagrana fuori in una piccola teglia e dopo l'aggiungiamo alla nostra pasta. Però alla base deve esserci questo semino all'interno, non fastidioso. Molto bene, molto molto bene. Quindi va bene, perché col cacio e pepe è comunque un elemento che dia freschezza, no? E dolcezza, poca acidità. Cioè, posso dire una cosa? Se siete stanchi, ragioniamo per assurdo della solita meravigliosa cacio e pepe, il mio piatto del cuore, in questo caso ovviamente la melagrana, ma anche per esempio del limone può andare bene, che altro ci può stare per dare una... No, io andrei... Per sì, aggiungere una nota. Una parte di acidità potremmo mettere, se dovessimo mettere un frutto tipo la pera, poi è il momento, la mela a piccoli cubetti, aggiungerei un tocco di aceto di vino bianco per contrastare quella quindi base grassa. Quindi al contadino non devi far sapere quanto è buona la cacio e pepe con le pere. Con le pere. Cannavacciuolo, esatto. Come va, maestro? Come stai? Sì, tutto bene, tutto bene. Carino, ciao. Che ci ciao, mettiamo nella cacio e pepe? Qual è, che ci possiamo mettere con la cacio e pepe per aggiungere freschezza? Una bella porchetta, una bella brava. Devi avvolgere e mangiare così, e se ci sto io a tavola, Antonino, è meglio che vi sbrigate, se no finisce presto. Senti, siamo pronti per la nuova edizione, insomma il 17 comincia tutti i giovedì alle 21:15 Sky 1, ci sei tu, c'è Giorgio Locatelli, c'è Bruno Barbieri. E com'è stato girare questa edizione di MasterChef con le condizioni, ovviamente con i vincoli, con le precauzioni del Covid? Sì, io ti dico la verità, ero molto preoccupato, no? Pure perché noi giriamo prima, ho detto poi, sai, con la speranza che in questo momento non c'era più il virus, ho detto, sai, se rispettiamo tutto il protocollo, può essere che poi a dicembre è strano vederci un po', sai, con le misure, certo. Così, con e invece il virus, ahimè, c'è ancora, perciò alla fine quello che abbiamo fatto vale ancora tutt'oggi, con dispiacere, no? Sono stati molto molto bravi gli autori, perché hanno fatto di un problema una forza. Uh-huh. E quella è una cosa molto intelligente, perché noi abbiamo fatto tutto il quando abbiamo cercato i concorrenti, l'abbiamo proprio con il Zoom, siamo andati nelle loro case. Mm. C'è una cosa bella proprio nella loro intimità, no? Certo. Abbiamo visto le loro cucine, cosa stavano mangiando, poi bene o male la telefonata la facevamo a ora di pranzo. Si capisce molto dalla cucina delle persone? No, ma veramente c'erano abbiamo beccato i concorrenti che c'avevano una cucina che veramente attrezzata a livello di ristoranti, uh-huh. Perciò là già capisci che chi sta là e chi ha quel tipo di cucina là veramente è un appassionato di cucina, non è solo a parole, a fatti. E poi la cosa molto bella è che loro, quando sono arrivati le prime selezioni, loro cosa facevano? Portavano un piatto e poi lo finivano davanti a noi. Invece quest'anno il piatto non l'hanno portato, sono arrivati, loro non lo sapevano, sono andati in dispensa, hanno fatto in 3 minuti la spesa e hanno preparato il piatto. Ah. Perciò ancora più, diciamo, certo, ancora più indicativo, diciamo, del talento di questi ragazzi. Interessante pure, perché sai, quando ti porti qualcosa da casa, alla fine sai, tu ti fidi, ma non lo sai nemmeno. Noi perciò facevamo tutte quelle domande: dove hai preso il pesce, come l'hai fatto, certo. Perché da casa può essere pure te l'ha fatto tua nonna, tua mamma. Chiaro. Va bene, capito? Allora ci fermiamo un secondo e ripartiamo subito da qui, subito. Sai che io ancora esattamente non ho capito. Che cosa, Leonardo, non hai ancora capito? Non ho esattamente capito di cosa parliamo noi qui a Uno, Nessuno e 100 Milan. Parliamo di attualità, ma a modo nostro, dando spazio a tutte le opinioni. Non è vero, diamo spazio solo alle opinioni che ci fanno comodo. Questa è una tua opinione. Sì, certo. Io non la condivido, ma te l'ho fatta dire, ti sei smentito da solo. Sei scaltro. Ti ascolto perché sei scaltro. A che ora cominci? Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 9 fino alle 11. Uno, Nessuno, 100 Milan. Uno, Nessuno, Nessuno, 100 Milan. Sei scaltro. Quasi ti ascolto anch'io. Mangia come parli, mangia come parli. Allora, fra poco essere a Soldani, Spazio News, ma intanto siamo con Antonino Cannavacciuolo, pronto domanda, per MasterChef del 17. Prego. Una domanda, Antonino. Soldani e Cannavacciuolo insieme, come, incredibile. Come hai visto, oramai sono 10 anni che c'è MasterChef, giusto? Sì, 10 anni. Sì. 10 anni. Come hai visto il cambiamento tra i concorrenti, cioè tra la passione, la tecnica, la tenacia che loro mettono? Allora, ti dico una cosa, la televisione, tu lo sai benissimo, Davide, la televisione ha portato proprio un linguaggio fra il popolo, fra la gente appassionata a questo mestiere. Oggi abbiamo un po' fatto un passo, diciamo, avanti tutti, perché una volta, io mi ricordo, e tu lo sai, 20 anni fa nessuno faceva caso alla provenienza, al prodotto, al piccolo produttore, cioè si andava a prendere, si conosceva e faceva. Oggi, secondo me, dopo 10 anni, ma non solo di MasterChef, un po' del parlare di cucina in televisione, oggi abbiamo persone più attenti. Certo. Avere dei clienti e delle persone attenti, pure noi come parlo di tutta la fascia della ristorazione, deve stare attento, capito? No? Abbiamo dei controlli. Quindi è... È una cosa molto positiva, sì, che è successo. Io, domande nel mio, io parlo pure per me, perché ormai Villa Crespo c'ha un'esperienza di 20 anni, 21 anni. 21 anni fa nessuno ti chiedeva niente. Sì. Oggi, vicino al metro, vicino al direttore di sala, prima di prendere la domanda sono 50 domande che fanno. È da dove prendete quelle, dove andate, certo, a cercare quindi quello. Quindi questa è cultura. È cultura, curiosità, che poi è la curiosità del nostro lavoro, è la cosa più bella, no? Di far scoprire cose nuove tutti i giorni. Perciò è proprio, non è solo MasterChef che è cresciuto, è proprio la nazione, lo stivale che è cresciuto attorno al cibo. Non è solo la buffata che si faceva 20 anni fa, è buona, è abbondante, andiamo avanti. Okay. Oggi ci sono i veri appassionati, persone che mettono i soldi da parte, persone che gli regalo, lo fanno in una grande struttura di ristorazione, proprio vero. Eppure ci devo andare, quello, cioè, è proprio stata la forza, il linguaggio. Io già 10 anni fa, quando dicevo va bene che se ne parla in televisione, alla fine stiamo parlando del nostro lavoro, capito? Sì, è vero. Io, quindi, non si spiega meglio. Quattro anni fa è venuto a mangiare un signore a Villa Crespi da Napoli, annunziata così, è venuto proprio per la curiosità di conoscere me, non il ristorante, certo. Proprio voleva conoscere me, ok? Ma nel frattempo ha mangiato. E lui, quando ha mangiato, io ho visto a quell'uomo che è rimasto, dice, ma veramente si può fare questo in cucina? Io, quando poi mi sono messo là a parlare così, ho detto, vedi che a Napoli ci sono ristoranti come a Villa Crespi. Certo. E quando io ho detto quello, dici, io quando torno io ci devo andare, io non lo sapevo. Alle volte ci sono delle persone che si occupano veramente di tutt'altro e non lo sanno nemmeno del mondo culinario, del mondo del piccolo produttore. Cioè, per lui il cibo è butta la pasta, mangiamo e facciamo in fretta. Senti, cioè, l'altro... Vai, finisci? No, avevo un'altra curiosità. No, è quello voglio dire, perciò quando se ne parla va bene per tutti, capito? No, si può crescere. Anzitutto ho scoperto ora che hai lavorato all'Auberge de Lille, che era un grande ristorante, quindi ti faccio i complimenti, sì, perché non lo sapevo. Ho fatto uno stage. Fantastico. Molto bello, bellissimo. Ma io ti posso chiedere di Maradona. Ecco, adesso te la fa Pier la domanda. Volevo fartela, però te lo fa Pier. Vabbè, tanto la domanda è collettiva, no? Assolutamente. È vero che è venuto a mangiare da te una volta a Villa Crespi? Immagino che per te sia stato. È stato 3 giorni a Villa Crespi, Maradona. 3 giorni ragazzi, lo posso dire, c'avevo il fuso orario, andava a dormire alle 6 del mattino e si svegliava alle 6, alle 7 di sera, e dalle 7 di sera fino alle 5 del mattino stavamo al ristorante a mangiare e palleggiare con il pallone. Che figura, proprio l'altro ieri sera mi ha detto mia moglie, è l'unica volta che per 3 giorni non ho visto mio marito. Perché io di giorno lavoravo mentre lui dormiva e di notte stavo con lui. Ho fatto 3 giorni, veramente è stato bellissimo. C'ho ancora tutti, c'ho un video che io ho pubblicato, c'ho un video, ma c'ho altri un paio ancora di video che palleggia proprio in sala. E poi dice Tonino, cantami quella canzone. Tonino, cantami quella canzone. Veramente è stato 3 giorni bellissimi. Rimarrà per sempre una, come un pelle d'oro, pezzo della cultura napoletana. Raga, no? Tutti possono parlare 3 giorni per, su pochi per conoscere. Per, allora, quelli che appelle un buono, ma un buono, veramente una persona fantastica. Poi tutti quanti ci abbiamo fatto, non ti preoccupare, ma no, non ti preoccupare. A pelle era veramente un buono, ma quello veramente. Grandissima persona, fenomeno. Ancora tutt'oggi sto vedendo un po', sai, stanno facendo vedere varie. Certo. Varie sfaccettature, varie video di Maradona, ma questo è veramente un fenomeno. Cioè, dove andava. Creava massa, chi crea massa è fenomeno, eh? Carisma, esatto, carisma totale in campo e fuori, perché il calciatore straordinario, ma l'uomo, anche l'uomo è stato un leader assoluto, carismatico, politico, anche ovviamente con le fragilità. Senti, a me viene in mente Vico Equens subito, io vedo l'annunziata, vedo quando parlo con Cannavacciuolo. Però avete fatto una cosa anche insieme importante su Cucina Italiana, con Oldani, sì, no? Abbiamo... Tu hai fatto dicembre adesso, che cos'è questa? Perché torniamo al tema della biodiversità, che è fondamentale. Sì. Avete fatto una serie abbiamo di numeri? Cucina Italiana ha preso 6 chef. Uno per mese, praticamente. Uno per mese dal mese di agosto, facendo, poi dedicando la copertina e l'interno, facendolo dirigere. Praticamente abbiamo fatto i direttori per il mese. Cioè Fedele usa lì scatenato, esatto, questa idea. E della tua biodiversità, allora te lo chiedo direttamente, Antonino, 2 o 3 spunti di cose che uno non si aspetta di mangiare, che ti sorprendono ogni volta come sapore, che secondo te sono sottovalutate, che ancora non sono così conosciute? Vabbè, un frutto di mare come i limoni di mare è un frutto che mi sembra in qualche nazione è pure vietato. Allora là senti proprio il mare, né bene né nel mare, proprio da uomini di mare. Primo quello è... E poi un altro penso alla mela annurca, che è una mela fantastica, veramente... che io uso. La mela annurca, e poi un altro che io ti dico, tutti questi ingredienti che sono buoni, ma ne vedo poco uso. Sono certo. Le cicerchie. Un legume fantastico. Un legume fantastico. Tonino, tu ti ricordi? Io le ho conosciute a Capri l'anno prima che andassi tu al Quisisana con la signora Carolina che le faceva per lo staff. E da lì ho cominciato anche a usarle. Con le cicerchie. È una grattata di parmigiano sopra, è tanta roba. Tonino, grazie. Grazie, Tonino. Dal 17 dicembre, Masterchef Italia. Non c'è neanche l'Europa League in questo periodo, giovedì, per cui mi posso godere tutto questo. Andiamo con lo Spazio News, vai! Allora, a proposito di Masterchef, Recoba ha chiuso la sfida ai fornelli col secondo posto nell'edizione uruguayana, che ha visto come vincitore Aldo Martinez. Complimenti al Cino. E poi, a causa del clima, le clementine sono piccole, buone e tante, questo ce lo dice Ortofrutta Italia, le locandine e i banchi informano il consumatore. Oltre alle problematiche ovviamente strutturali di questa produzione, la stagione 2020 si sta contraddistinguendo per la mancanza per la presenza, o meglio, sul mercato di una quantità ben superiore rispetto agli altri anni di calibri piccoli o medio piccoli. Insomma, rimane ancora un mese pieno per la commercializzazione delle clementine italiane, ma è tutta una situazione che deve qualità essere monitorata. E poi c'è un progetto che riguarda Mani in Pasta, un tipo di impasto completamente diverso con garofalo che supporta tutta l'operazione. Anche qui siamo nell'ambito dell'assoluta sostenibilità. Ne parliamo con Vincenzo Russo, mio amico, che fra l'altro è professore associato di psicologia dei consumi e neuromarketing presso lo IULM. Ciao, ciao carissimo, come stai? Ciao Vincenzo. Ciao Davide. Allora, ciao, tu hai fatto anche un libro interessantissimo. Io l'altro giorno sono rimasto, abbiamo fatto questa presentazione, sono rimasto colpito, ho scoperto che abbiamo, per esempio, come si chiama lì, la corteccia del quella che quando siamo felici, la corteccia pre... Beh, noi abbiamo la corteccia prefrontale che si attiva quando abbiamo una bella esperienza, soprattutto se la sinistra, giusto, la corteccia enogastronomica. Sì, assolutamente, assolutamente. Quindi quando io ho una cacio e pepe come quella che mi cucina Oldani, io ho la corteccia prefrontale sinistra che mi si illumina d'immenso. Che ci parli del progetto Mani in Pasta che hai presentato assieme a Garofalo, perché insomma, il ruolo della percezione è fondamentale. Sì, questo è un progetto molto interessante perché si tratta di un progetto che ha nel suo animo sia di dimensione sostenibile che anche di economia circolare, perché si tratta di recuperare dalla pasta che viene generalmente come dire, residui della produzione di pasta trasformata appunto in farina rigenerata, può essere utilizzata sotto forma appunto di preparato che mischiato con altre farine può diventare un'ottima occasione per fare diciamo degli impasti molto più soffici, molto più digeribili, con una shelf life molto più lunga. In qualche modo si recupera quello che generalmente si rischia di buttare. Quindi un progetto di grandissimo interesse da un punto di vista appunto sostenibile anche, ma ripeto, di economia circolare, perché si tratta appunto di evitare gli sprechi. E quindi complimenti fatto... Antonella Bondi. E poi invece ti volevo chiedere del tuo libro, perché io ho cominciato a leggerlo e devo dire che veramente la bellezza è che è un libro ovviamente scientifico, ma di divulgazione, neuroscienze a tavola, come il cervello elabora, insomma, dietro al godimento che c'è dietro a un piatto ci sono dei meccanismi complessi ma interessantissimi. Assolutamente. Ricordiamoci che quello che noi percepiamo è diverso da quello che sentiamo, quindi, come dire, sono degli elementi che sono contestuali al cibo che modificano la percezione del cibo, anzi ci fanno percepire alcuni sentori, per esempio la musica ad alta frequenza, che è una musica tipicamente dolce, tende a stimolare dei sentori molto più dolci di un prodotto, o il colore dei piatti, lo sa benissimo Davide, è molto competente in quest'ambito, cioè cambiare gli aspetti del contesto può profondamente modificare la percezione dei sapori. Ovviamente un prodotto cattivo rimane cattivo, ma uno buono può essere percepito migliore. E in questo libro parliamo di perché funzionano questi meccanismi, facendo riferimento ovviamente al cervello, come funziona il nostro cervello, scoprendo anche dei segreti che ci permettono di rendere l'esperienza gastronomica un'esperienza unica e anche quindi narrabile e condivisibile con gli altri. Quindi parliamo di luci, parliamo di colori, parliamo dell'effetto dei contenitori, delle posate, tutto quello che ha a che fare con la percezione appunto di un prodotto e che modifica, ripeto, in meglio l'esperienza che stiamo facendo. Assolutamente. Professore, grazie, complimenti. Grazie, neuroscienza grazie a tavola, Vincenzo. Per capire come ragiona il nostro cervello mentre noi siamo lì che godiamo con la cacio e pepe. Tutto il resto, fra poco ripartiamo. Mangia come parli, mangia come parli. Allora, siamo di corsissima, gli SOS Soldani fra poco, 349-239-0191, intanto trancio di vitello, salsa al rosmarino e melagrana, vai. Ah, questa è molto veloce, qui utilizziamo la melagrana in maniera diversa, per cui sempre attenzione alla tracciabilità del prodotto, che sia un prodotto italiano con il semino piccolo all'interno e che abbia la dolcezza giusta. Qui facciamo arrostire 4 fette di scamone, che è la parte tenera della coscia, insomma del vitello, in questo caso facciamo arrostire con un ramo di rosmarino, leviamo la nostra carne e sgrassiamo la padella, deglassiamo col succo di mezza arancia spremuto, facciamo ridurre, aggiungiamo 50 ml di panna, quindi poca cosa, giusto per addensare questa salsa. Mettiamo questa salsa sul nostro pezzo di carne, sul nostro scamone che risulterà molto tenero, scamone o filetto potrebbe anche andar bene. E poi terminiamo con la melagrana sgranata naturalmente e saltata in padella con un velo di olio, per cui è leggermente arrostita sopra questa carne tenera e poi c'è questa parte di panna e questa parte dolce della melagrana. Agostino Perrone e Giorgio Bargiani sono 2 mixologist italiani di fama mondiale che hanno appena visto il loro Kenneth Bar di Londra svettare al numero 1 della lista dei migliori bar del mondo. Buongiorno! Complimenti! Salve, buongiorno, grazie mille a tutti. Sei Agostino o sei Giorgio? Sono Agostino. Sei Agostino, ma c'è anche Giorgio? Sono, Grande. Certo, buongiorno signori. Ho una domanda diretta. Ragazzi, siete i number one. Come, prego. Ho una domanda diretta, ma il cocktail quanto entrerà nell'essere, prendetela con le pinze, masticato e non più bevuto, oppure bevuto e masticato, non lo so, mangiato? Parte del cocktail può essere anche mangiata. Noi lavoriamo con le testure, quindi avendo una testura un po' più densa di un cocktail aiuta i sapori a espandersi sul palato, avere una persistenza di sapori, quindi si può avere la sensazione quasi di avere qualcosa, non dico di masticato, però con più densità. Inoltre usiamo delle guarnizioni, delle decorazioni che sono commestibili, quella è una parte che complementa nel nostro stile. Altri lavorano con testure un po' più solide, noi siamo abbastanza classici col twist innovativo, quindi sì, la testura è molto importante. Allora, fra poco vi sottopongo all'ultimo piatto dello chef Oldani, perché c'è una componente proprio legata a un cocktail di melagrana, quindi in perfetta sintonia con l'argomento della puntata di oggi. Ma prima vorrei che Giorgio e Agostino ci dicessero come si fa a diventare i numeri uno, cioè qual è il segreto, qual è il... Qui oggi sono fra un doppio stellato come Oldani e voi che siete i numeri uno dei bar al mondo, qual è il segreto dell'eccellenza per rendere un bar, prima di tutto, uno dei 50 best e adesso addirittura il migliore? Il segreto è non avere segreti e continuare a sperimentare. Io parlo dell'esperienza dal punto di vista del servizio, dell'atmosfera, e Giorgio aggiunge l'esperienza dal punto di vista della mixology del cocktail. Un bar, il cocktail è come un ingrediente del cocktail finale, che è un'esperienza nel bar. Inoltre c'è l'atmosfera, ci sono le luci, la musica, l'attitudine dello staff, la conoscenza, la preparazione dei ragazzi e delle ragazze che aiutano i clienti a sentirsi a loro agio. Ma la conoscenza non è solo tecnica del prodotto, ma la conoscenza di, come si dice, di people skills, quindi come interagire con le persone, certo, come farli rendere a loro agio, ma anche renderle curiose. Il cocktail è il fattore che ci aiuta a rendere ciò. Lo customizzate, quindi, in poche parole, lo cambiate in base anche all'idea o al gusto di una persona che avete davanti, da una richiesta. Ma anche i classici, sì, la domanda da fare è questa, anche i classici più classici siete disponibili, certo, a cambiarli in base alla richiesta di un ospite? Ci personalizziamo in base alle esigenze dei nostri clienti. I drink non li creiamo per noi, ma li creiamo per loro. Certo. L'idea principale è farlo eccitante come storia e come concetto, però poi approcciabile una volta che raggiunge il palato e l'olfatto. Sparkling and easy, vabbè, mi sono lanciato. E volevo dirvi che qualche estate fa parlavamo proprio col professor Russo proprio di questo aspetto, no? Di quanto è importante la percezione, di quanto è importante lo star bene, al di là ovviamente dell'aspetto prettamente tecnico di una ricetta o di un cocktail, c'è tutto un tema legato alla psicologia di chi va lì e vuole passare del tempo e vuole passarlo quando sarà possibile, ovviamente, perché non è un anno facile, non è stato un anno facile nemmeno ovviamente per i cocktail bar, in un clima di socialità molto piacevole. Allora io proverei a fare questo salmone in salagione cocktail di melagrana, no, che è la terza tempo e ultima ricetta. Allora assolutamente, okay, il salmone non lo cuocio con il fuoco, con il calore, ma lo cuocio con zucchero e sale mettendolo in salagione. Per cui 300 grammi di salmone lo mettiamo in salagione con 20 grammi di zucchero e 15 grammi di sale per 8 ore più o meno. Poi lo laviamo, lo asciughiamo, lo tagliamo a piccoli tranci e lo adagiamo nel piatto. Il cocktail, adesso qui mi vergogno un po' davanti a questi due maestri, però è una cosa che possa andare a contrastare un po' il grasso del cocktail con, naturalmente lo faccio con una frusta dalla cucina, 40 ml di succo di melagrana pressata, 320 grammi di ginger beer, 40 grammi di zucchero, magari un moscovado schiacciato, più o meno 18 ml di vodka, la scorza e succo di mezzo lime e lo zenzero grattugiato. Frustiamo il tutto, filtriamo alcolino, lo facciamo raffreddare in una bacinella adagiata in un'ulteriore bacinella con del ghiaccio e poi serviamo col salmone. Adesso il gusto sarebbe da assaggiare, c'è un ragazzi, po' di piccante, un po' di dolcezza. Giorgio, tutto confermato, va bene? A me è venuta fame, ecco. Siamo all'ora giusta adesso dell'aperitivo, quindi va benissimo. Va bene ragazzi, grazie, complimenti. Campioni del mondo, S. Soldani in un minuto, vai, via, S. Soldani, Rosa da Matera, subito, veloce, Rosa, vai! S.O.S. Oldani. Salve chef, mi insegna un trucco per capire quando le uova sono perfette per fare la maionese? Grazie. Beh, io direi guardare la data di scadenza sulla confezione è la cosa più sicura del mondo. Beh, fantastico, viva Matera. Francesca da Conversano. Salve chef, io cucino sempre le lenticchie in modalità zuppa tradizionale con sedano, carote, cipolle eccetera. Ma mi hanno un po' stufata. Mi suggerisci un altro modo per cucinarle? Grazie. Assolutamente, acqua bollente, leggermente salata, le nostre piccole lenticchie cotte, tolte leggermente al dente per cui non si sfaldano e poi saltate in padella con un velo di olio. Che bello, carote, senti come ha detto carote, da Conversano, meraviglioso. E poi Paola da Milano, vai. Buonasera. Ho sentito nella vostra trasmissione che parlavate di razza come pesce tipico da abbinare anche al cavolfiore. Volevo sapere se fosse possibile fare la stessa ricetta usando il rombo e in ogni caso sapere che differenza c'è di gusto e di consistenza tra i due pesci. Allora, le consistenze, assolutamente, le consistenze, se sono cotte in maniera corretta, sono molto simili. La cosa della razza, che è molto più veloce, insomma, si perde la freschezza in poco tempo. E naturalmente io a questa ricetta col cavolfiore aggiungerei della melagrana. Il libro di Mangia come parli con le tue ricette. Beh, direi Paola da Milano, Paolo, perché è molto precisa nella domanda. Va bene ragazzi, andiamo di corsissima. Settimana prossima ci saranno le cime di rapa qualità. Ciao ragazzi, ciao.